Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Venerdì scorso abbiamo parlato con l'ex ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Francesco Profumo delle difficoltà dell'Italia nel riportare a casa i denari che investe nell'Europa e che poi l'Europa riassegna attraverso dei bandi come quelli destinati alla ricerca. E ne abbiamo discusso alla luce di un'esperienza recente, i bandi del MIUR dedicati alle Smart City e alle Smart Communities, che sono stati un esempio piuttosto raro di efficienza per quelli che sono gli standard della burocrazia italiana. Da qui ripartiamo questa sera con il professor Profumo. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti voi. Dunque Profumo, vorrei parlare un po' con lei di questa partita delle Smart City, del ruolo dell'Italia. Lo farei ancora una volta partendo dai bandi Smart City che il MIUR ha rilasciato recentemente e anche dai progetti che vi sono pervenuti quando avete pubblicato questi bandi. Voi alla fine avete finanziato 38 idee relative al filone Smart City and Communities e 58 progetti che vanno sotto il filone della invece innovazione sociale. Ecco, allora, se lei pensa alle domande che sono arrivate al Ministero, quali sono i punti di forza o di debolezza? Il punto di forza è certamente che c'è una grande capacità di reazione del Paese. Il Paese ha reagito benissimo da questo punto di vista. Il numero delle proposte è molto grande, le richieste erano molto superiori rispetto purtroppo alla disponibilità di fondi. Il punto di debolezza che cos'è? Che il Paese ha bisogno di essere allenato per imparare a lavorare più insieme, per poter riutilizzare cose che sono state fatte. Il tema del riuso è un tema essenziale. In questi anni abbiamo avuto moltissime sperimentazioni anche nel settore delle smart communities, delle smart city, e nulla è diventato piattaforma nazionale e progetto paese. Quindi c'è da una parte questa reazione molto positiva, dall'altra c'è questa ancora... Torniamo agli atomi di cui si parlava ieri, no? Che fanno fatica a formare le molecole. Siamo sempre un po' allo stesso problema, no? Il Paese sembra avere un'ottima base, ma poi quando deve sintetizzare, deve presentarsi con un sistema complessivo, dimostra tutta la sua debolezza. Ecco, noi ci siamo incontrati pochi giorni fa, lei segnalava un'altra cosa, la tendenza delle regioni, delle singole regioni a riprodurre la struttura dei bandi, diciamo così, cioè sembra di capire che le regioni tendono a presentare un progetto per ogni bando sostanzialmente, per ogni voce di bando. Sì, purtroppo non essendoci questa attitudine al coordinamento, naturalmente le idee buone sono quasi sempre limitate. Lei dice. Certo. E allora che cosa si fa? Si riproduce, ed è chiaro che questo va un po' contro, no, lo spirito della città intelligente. Dove la città intelligente che cosa significa? Significa che ci sono sensori, ci sono apparati che vengono distribuiti nella città e poi ci sono delle applicazioni che consentono di gestire l'insieme. Pensiamo, non so, alla mobilità, certo, piuttosto che all'ambiente, piuttosto che alla scuola, alla sanità, e naturalmente tutta la parte di applicazione, tutta la parte software potrebbe essere un progetto paese. Noi oggi abbiamo anche le tecnologie perché questo possa venire attraverso quello che si chiama il cloud, la nuvola, quindi potrebbe essere realizzato una volta sola e poi utilizzato nelle diverse regioni. Invece tutte le regioni si propongono per realizzare il loro proprio sistema di raccolta dati. Naturalmente quando c'erano tante risorse questo poteva essere anche un elemento positivo, perché ciascuno poi cercava di migliorare, ma in un momento di risorse scarse, così come scarse, questo, certo, bisogna cominciare a ripensarsi. E forse però, voglio dire, proprio questo comportamento delle regioni è anche figlio della scarsità di fondi, nel senso che uno a questo punto probabilmente il criterio è stato dove possiamo andare a recuperare fondi e proviamole tutte, o sbaglio, invece di concentrarsi sui propri punti di forza, che è una delle robe venuta molto bene fuori durante questo convegno. Ci siamo trovati a Firenze, appunto in un convegno nel quale venivano messe a confronto politiche di sviluppo territoriale della regione Toscana con quelle di alcuni lender tedeschi, dove è venuta fuori in modo fortissimo questa tendenza dei tedeschi a una forte specializzazione, a far sopravvivere solo le eccellenze, no? Certo, questo è quella capacità di gestire i sistemi complessi che è propria dei tedeschi ed è un grande punto di debolezza nostro. Loro identificano le priorità per ciascun land in modo anche un po' spietato, diciamo. Certo. Dopodiché però i risultati che ottengono nei singoli land, se sono positivi, vengono riportati anche negli altri. Immaginiamo di applicare questa logica della specializzazione sulla scala regionale anche per quanto riguarda i singoli stati all'interno del contesto continentale. Ecco, da questo punto di vista l'Italia, secondo lei, in che modo deve stare dentro questa partita delle Smart City? Ci sono dei settori particolari? C'è un modo di star dentro specifico per il nostro paese? Beh, intanto il nostro, essendo un paese che ha una prevalenza di comuni piccoli, ecco, infatti, molti, volevo arrivare. Molti di questi hanno una loro storia lunga, qualche volta di centinaia se non di migliaia di anni, per cui io credo che noi non possiamo prendere tout court il modello la città intelligente come viene proposto in paesi, mi lasci dire, nuovi. Sì, gli Stati Uniti, le grandi metropoli separate dai grandi spazi, no? Ecco, noi dobbiamo pensare ad un modello italiano che sia molto attento proprio a questa specificità. Pensiamo, non so, ad una cittadina dell'Umbria piuttosto che della Toscana. Senta, però da questo punto di vista una cosa che viene sottolineata è come, tornando al bando di cui parlavamo, grandissima parte dei finanziamenti siano finiti su due città, Milano e Torino. E quindi da questo punto di vista c'è bisogno di una tornata, secondo lei, che magari sia dedicata alle piccole e medie città? È giusto così, nella logica della specializzazione e dell'eccellenza di cui parlavamo prima? Beh, se noi pensassimo che le grandi città, per la loro esperienza, per la loro forza, diventano i promotori di questo modello delle città intelligenti e poi i prodotti che vengono sviluppati vengono riusati e vengono messi a disposizione dell'insieme di tutti i comuni, probabilmente otterremmo un buon risultato. Grazie, grazie mille professor Profumo. Grazie a voi, buona serata a tutti, grazie. È davvero tutto, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.